Oppure ti scrivo un messaggio, perché noi abbiamo una serie di messaggi di giorni, quindi posso... Sì, lo sai, io... È molto più facile così. Ma perché diavolo voi giovani non vi parlate? Fanculo i messaggi. No. È un telefono, chiamala. O ancora meglio, perché non la porti a cena e ci parli mentre mangiate? Una cena? A me sembra un'ottima idea. Lo è? Sì, sì! Allora ti chiamo per la cena. Ottimo, ci sentiamo dopo. Ok. Ciao. Ok, grazie. Devi smetterla di avere così paura delle donne, figliolo. Sai, le donne vogliono un uomo che sia un uomo. Non vogliono uno con la passera. Beh, alcune di loro vogliono la passera, mentre altre vogliono tutte e due le cose. Sono le mie preferite. Ma in generale, le donne vogliono un uomo con gli attributi.